Ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, ti volevo dire che adesso devo andare in palestra e io che cosa faccio? Metto la zanzara così pompo di più i muscoli, sì! Ragazzi, visto che con questa cazzo di neve tornerò a casa alle 8 dal lavoro, vi vorrei belli carichi, vedete di farmi godere un po' almeno voi due. Zanzara, Uakbar, zanzara, Uakbar! Una frase bellissima oggi, caro David. Ho letto una frase molto molto bella. La frase è questa: la libertà ha un prezzo. Spesso per essere liberi bisogna essere odiosi. Spesso libertà fa rima con egoismo, anche con le donne. No, la voglio ripetere all'inizio di questa trasmissione di oggi. La libertà ha un prezzo. Spesso per essere liberi bisogna essere odiosi. Beh, spesso certo. Libertà fa rima con egoismo, anche con le donne. Però ieri, presi dalle cose nostre, ma non era scritto nei bagni della stazione centrale? Ma che c'entra i bagni? Chi ci è andato alla stazione centrale in oggi? Non ci sono andato. No, è una frase che ho tratto da un'intervista, non mi importa di chi l'ha detto, non è importante. In un giornale X oggi. Allora, ieri però ci siamo persi una cosa fondamentale. Presi dalle cose nostre sui conigli, eccetera, eccetera, ci siamo persi una proposta fondamentale che viene dalla regione Sicilia. Una regione particolarmente virtuosa, come sai, no? Dove tutte, sì, le cose funzionano bene. Sì, la Svizzera italiana. Esatto, dove i bilanci sono a posto, dove ci sono pochissimi forestali, dove i dipendenti pubblici sono il numero giusto, proprio perfetto, eccetera, eccetera. Una regione modello. E beh, il presidente di questa regione modello, il presidente di questa regione che è un esempio virtuoso per tutta l'Europa, per il mondo, direi, cioè la regione Sicilia, il mitico Crocetta, che qualcuno, per offenderlo, ha com'è che lo chiamano? Frocetta, però noi non lo chiamiamo Crocetta. Brutto. Vuole fare il mediatore in Libia con l'ISIS. Con tutto quello che ha da fare, mi sembra. Ragazzi, cioè, ma lo sapete perché vuole fare il mediatore? Dice: conosco, io apprezzo moltissimo Crocetta, è anche amico mio, devo dire. Conosco molto bene il signor Crocetta. No, lui ha detto: vuole fare il mediatore perché conosco l'arabo e il Corano. A parte che bisogna vedere quanto conosce davvero l'arabo e il Corano. Dice: parlo arabo, conosco il Corano, l'ho studiato. Sì, ho capito, ma non è che il fatto di conoscere l'arabo e il Corano, questo spacca, amico mio. Poi c'è da notare una cosa che giustamente ha fatto notare Facci questa mattina, che si chiama Rosario e Crocetta. Cioè, si chiama Rosario, il Rosario, e anche, sì, Crocetta. Forte, sì, questo. È frocio, è omosessuale. E i signori dell'ISIS non è che vedono molto bene gli omosessuali. Cioè, non li vedono di buon occhio. Cioè, se tu vai là a presentarti: pronto, buongiorno, sono Crocetta, per omosessuale. Ma se arrivano, sono Rosario Crocetta. Crocetta. Stupendo, ragazzi. E lì il califfo lì lo guarda. Poi, sì, omosessuale. Dai, ragazzi, su. Facciamo ridere con queste cose. E Crocetta è un personaggio straordinario, un personaggio stupendo, drammaturgico, meraviglioso, stupendo, anche onesto, devo dire la verità. Sicuramente non è un eroe. No, il mediatore in Libia con l'ISIS, no. Ma anche a suo vantaggio, lo dico, cioè, per non farsi scannare da questi signori dell'ISIS. In Libia, mediatore, Crocetta, te lo immagini? Ma perché uno dovrebbe dare l'incarico a Crocetta di fare il mediatore con l'ISIS? Cioè, non si vede perché. Poi il governatore della Sicilia che già ha i suoi problemi, come dire, no? Oh, mi dicono che è tornata a parlare quella ragazza, che sosteneva la convertita, l'italiana convertita, proprietaria di un albergo a Sondrio che ospita i profughi e rifugiati, contro cui combatte il signor Salvini. Si chiama Salvi, senza NI finale, cioè lei si chiama Salvi mentre c'è Salvini che è il suo nemico, no? Si chiama Salvi, e che aveva detto una frase assurda anche qui alla Zanzara, cioè che le ragazze che si vestono in maniera succinta, cioè che sono scoperte, che mostrano il culo, le tette, anche non no, esplicitamente, che fanno vedere, rischiano lo stupro. Non solo rischiano lo stupro, ma in qualche modo suscitano attenzione e dunque dovrebbero coprirsi. Questo ha detto la signora Salvi, ed effettivamente torna a ripetere queste cose. Io praticamente vorrei fare capire alla gente, andate, almeno qua nella mia zona, andate nelle discoteche a vedere le diciottenni o le sedicenni, tacchi alti, si vestono per offrirla. Si vestono per offrirla, ottimo direi, ottimo. Cioè, vestirsi per offrirla, che in realtà non è per offrirla, per avere incontri sessuali con uomini, sì, questo è la cosa più naturale, è normalissimo. Cioè, anche gli uomini quando vanno in discoteca o quando vanno in qualche locale magari vogliono cuccare, come si dice, no? E qual è il problema? E si vestono bene, cioè, si vestono magari bene, si vestono perché secondo loro c'è bisogno di vestirsi bene per cuccare, si vestono, profumi, cose, no? Cioè, qual è la differenza? Non capisco. Cioè, perché poi questa cosa, che cos'è che ha detto? Le ragazze in disco si vestono per offrirla. E allora? Ma questo è la dimostrazione che esiste la civiltà occidentale, la libertà. C'è il fatto che donne, uomini vadano in discoteca per trombare, oppure nei locali per incontrarsi e trombare. Amica mia, il mondo è questo, il tuo mondo è quello dell'inciviltà, il tuo mondo è quello della repressione, il tuo mondo è quello dell'Islam. Mi sento più femminile adesso. Femminile. Sì, più femminile, nel senso che il fatto di non mostrare forse nulla, cioè di doverti vestire un po' più, ho le curve, ma in questo caso non devo mostrarle. Mi apprezzano di più senza il commentino volgare che magari una persona mi faceva prima. Cioè, così mi apprezzano di più, se avete sentito bene. Così mi apprezzano di più. E vabbè, ci sarà qualcuno pure perverso che apprezza il velo, apprezza il... che ne so, no? Perché poi, per esempio, a me le donne piacciono coperte, non piacciono scoperte, no? Appunto, no, ma questo donne... infatti... Sì, però lei vuole dire un'altra cosa, cioè... Non è che vuole dire ognuno vada in giro come vuole, come dovrebbe dire qualsiasi persona dotata di buon senso, dotata di cervello, no? Dice, beh, quelle là, no? Quelle... E poi sì, dice... ma no, ma è chiaro che dai, nella sua visione conservatrice, così. Ma dice, guarda che molte donne che abbiamo chiamato e che abbiamo ascoltato, che sono intervenute islamiche, la pensano così. Cioè, pensano che scoprirsi... Tu ieri non hai voluto chiamare il mio amico dottore Abdallah Gabakhengi? Sì, perché è un problema dottore, sì. È vero, è vero. No, che non abbiamo avuto tempo. Anche segnalato. Non abbiamo avuto tempo, sì. Per sicurezza ho dato il tuo nome ai fratelli musulmani e altri amici. Come nome ai fratelli musulmani? Sì, anche a quelli di Hamas. Ho detto Cruciale, non ha chiamato... No, dai, no. Sto scherzando. No, però chiamiamo l'Abdallah Gabakhengi, fatelo spiegare da lui. Gabakhengi, che palle. Però, senti, però ho un problema con Gabakhengi. Ho un problema. Vorrei farmi aiutare per il dente che ho davanti. Chiamalo. Io gli avevo... Ma tu dici anche... che un dentista islamico può funzionare? No, è un dentista siriano. Siriano, certo. Siriano pure. Ah, sai che Buonanno vuole andare in Siria? Cioè Buonanno vuole andare in Siria. Beh, ma perché fermarlo? No, questo è un problema. Perché fermarlo? A voi interessano solo i consigli di amministrazione, interessano i soldi, a vedere le donne che fanno le sfilate di moda durante le SPA, durante i consigli di amministrazione. Lo schifo è l'infibulazione di quei musulmani che come dei maiali fanno del male a delle bambine che sono rovinate per tutta la vita. Questo è uno schifo. Qui se la piglia con l'infibulazione, su questo. Dove l'ha detta questa perla ultima? Al Parlamento Europeo, però su questo c'ha ragione, dai, su questo non ha torto. Adesso l'infibulazione puoi dargli ragione, dai. Ma su. È evidente. Comunque, ma non vuole è una andare pratica, in Siria ad incontrare. Ma non è una pratica prevista dal Corano, l'infibulazione, è una confusione incredibile. Comunque, ragazzi, vuole andare in Siria ad incontrare Assad. Ad incontrare... È un'ottima idea. Ecco, se, il tema, il commento di Parenzo è: due punti, ottima idea, virgola, nessuno lo fermi. Punto esclamativo. Allora, sulla questione del coniglio vi dico solo una cosa, no, molto coniglio, semplice, ragazzi, molto breve. Sì, ce la faccio più con sì, però ma io già non lo mangio, non ce la entro mangio la settimana più. Chiudiamo questa vicenda del coniglio. Però un ascoltatore, animali, se vuoi, però un ascoltatore mi ha mandato una lettera molto bella, è anche un è anche uno che ama gli animali. E la lettera è questa ed è la citazione di un libro, la citazione di un libro. Alla stazione ferroviaria furono spinti in un carro merci già stipato di polacchi. Alcuni dissero che l'SS li avrebbero uccisi col gas dentro al vagone, ma quando la porta venne riaperta e una SS che si chiamava Bloom mise dentro un cagnolino nero e una gabbia con un canarino e minacciò di sparare a tutti se fosse successo qualcosa alle due bestiole, Wiesenthal capì che non li avrebbe uccisi col gas. Le SS amavano i loro animali. Capito? Capito? Cioè, quelli, i più grandi amanti degli animali erano delle SS. Il traffico è il problema. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Napoli incazzatissima con il signor Enrico Mentana, a distanza di qualche giorno riprendiamo questa polemica che c'è stata a Tiki Taka lunedì, perché i social di Napoli, ma non solo i social di Napoli, persone normalissime eccetera eccetera, certamente no, persone che non hanno pregiudizi nei confronti di Mentana e di altri, e il direttore del telegiornale della 7, sono furibonde per quella frase rivolta del Pulcinella, di del Pulcinella rivolta al signor Auriemma, al signore. Facciamo risentire tutto. Cioè, non è che dobbiamo solo parlare dell'Inter e di un tortino arbitrale che ha avuto. Se poi di calcio devono parlare solo quelli che pensano di saperne più degli altri, e abbiate rispetto di questo Napoli primo in classifica. Non è che ci sono le persone per bene, quelle che dicono che l'Inter ha avuto un torto, e le persone per male che invece dicono guardate anche al Napoli. Allora, Boris Sollazzo, grande tifoso del Napoli, giornalista, è con noi. Buonasera, ciao Boris. Ciao Giuseppe. Allora, tu hai scritto, Boris, se non sbaglio, una cosa abbastanza pesante. Cioè, secondo te dare del Pulcinella a qualcuno è come dare, è come se si fosse rivolto Mentana a Idris, tifoso noto della Juventus qualche anno fa e anche di colore, come se gli avesse detto tu negro stai buono. Beh, mi sembra un po' esagerato, Boris. Sì, sul giornalismo, forse ho esagerato dicendo negro, ma se gli avesse detto cioccolatino, perché è quello il modo stressante in cui l'ha fatto, cioè una cosa saremmo, razzista? È una cosa razzista? Noi ci saremmo tutti rizzelati come pazzi, avremmo detto ma che fa Mentana, siccome lo fa con un napoletano, gli dà del Pulcinella, chissà perché non gli ha dato del Pagliaccio, chissà perché Mentana non ha detto, che ne so, riferito alla Juventus, Juve in trasferta, Calabria deserta, cioè non va fatto perché è di origini calabrese. La verità è che dargli del Pulcinella è, secondo me, non so se più razzista o più ignorante, perché poi se sapesse quanto sia, cioè, secondo te è un misto tra razzismo e ignoranza. Pulcinella non parlerebbe così, è proprio il modo di disprezzo, perché Auriemma, e te lo dico da uno che non è fan di Auriemma. Le due volte che sono stato a Tiki Taka, una con te, io ci ho litigato con Auriemma, quindi non è una sì, no, ma al di là della questione di Auriemma non Auriemma o del merito della discussione, che erano gli errori arbitrali eccetera eccetera, tu dici che dare del Pulcinella a uno significa sostanzialmente, oltre che denigrarlo personalmente, diciamo così, è anche un epiteto per razzista nei confronti. Ma io la domanda la faccio a te, perché non lo chiama Pagliaccio? Perché gli dice Pulcinella? Vabbè, perché napoletano? Perché è scherzoso? Lo vuole connotare. Guarda, io lo faccio anche per difendere te, perché lui a un certo punto non vuole. Ma no, per la teatralità del gesto, Boris, scusami, perché Auriemma è notoriamente come dare a sarebbe come dire a Viperetta clown. Cioè, è no, una ma non è vero, quello non è vero, come? Tra l'altro. No, non è vero. Auriemma è un teatrale. Giornalista. Ma no, ma nel suo eloquio è teatrale. Guarda, io l'ho visto, lo conosco Auriemma, ce lo vedo, Farenzo, non lo conosco di persona, lo vedo in televisione. Non ci sognerebbe mai di dire Belin a Farenzo. Non ci sognerebbe mai di dire Belin, che è un insulto in genovese, e se io andassi a Tiki Taka a dirgli Pirlotti o Pistola, Mentana si arrabbierebbe. Ma no, no, ma però come dire, scusami, ma tu è vero, però torniamo il sulla... razzismo non c'entrava proprio nulla. Allora, tu però hai detto una cosa precisa, cioè che dare del Pulcinella uno perché è di Napoli significa sostanzialmente avere un atteggiamento razzista nei confronti dei napoletani. È una battuta, dirlo con quella disprezzo non è una battuta. Poi mi potrete dire che Mentana è uno che non sa controllarsi, l'abbiamo visto prendersela con i suoi giornalisti per ma nulla. Ma poi che c'entra i napoletani? Esagerato. Ma Pulcinella, dagli del Pulcinella con quel disprezzo e dargli del napoletano pagliato. Ma i napoletani non c'entrano in quanto napoletani, c'entra lui in quanto Auriemma. Ma non lo dice a Cruciani, Mentana non lo dice a Cruciani. Ma chi stava parlando con Auriemma, mica con Cruciani che era pure presente. Guarda un po', tira fuori Pulcinella. Sì, ma sì, è una battuta, no? È come dire, dai, come non fare la maschera, non fare il pagliaccio. No, ma non dice non fare la maschera, non fare il pagliaccio, dice non fare il Pulcinella. Ma perché Pulcinella che era se non una maschera, scusa? Siete tutti due troppo intelligenti per non capire. No, ma mi pare, questa roba mi fa, sai cosa mi fa impazzire, Boris? Mi fa impazzire il fatto che i napoletani... C'è una considerazione del napoletano come di un pagliaccio, cioè questa è la... Ma non Auriemma, non i napoletani ancora, non avete capito? Auriemma in quanto Auriemma in quanto in quel momento personaggio teatrale. Lo sa talmente bene Mentana che il giorno dopo sente il bisogno di fare la precisazione. Se pensasse di essere stato chiaro, di non avere sbagliato, non direbbe era riferito ad Auriemma e non è riferito ai napoletani. Sa, io posso credere al fatto che il direttore abbia questa botta di ignoranza perché in quel momento era arrabbiato, perché aveva preso due pali, perché è un tifoso, quello che volete, tutti sbagliamo, ma nel momento in cui dice Pulcinella ha una connotazione razzista. E poi che lui non sia razzista io ci posso credere, sì, dire. Però tu dici è un'espressione razzista, ma assolutamente espressione sì razzista. Però qui c'è un po' di mania di persecuzione, devo dire la verità, e di vittimismo, ma dai, te lo devo appunto, dire, te dai, lo devo dire Boris, ma scusa, questa è una connotazione razzista, continuare a dare dei piagnoni ai napoletani. Vabbè, se non esageriamo, no, io non sto dicendo tutti i napoletani, sto dicendo semplicemente che pensare che se uno ti dà del Pulcinella semplicemente perché tu quello è da discutere naturalmente, perché tu hai detto certe cose o ti esprimi in un certo modo, se ti dicono Pulcinella allora significa che ce l'hai con tutta Napoli, che consideri un napoletano un povero cretino, uno stupido. Secondo me è il sintomo di una scarsa stima nei confronti del popolo napoletano, oltre che di ignoranza, perché poi Pulcinella è una maschera nobile, non la usa in quel senso. Ignorante e razzista, tu stai dicendo? Temo di sì, temo proprio di sì. Poi probabilmente, ripeto, è provocato dalla rabbia e quindi è un momento di ignoranza e razzismo. Però per me uno dice Pulcinella e lo ripete, Pulcinella stai calmo, sì, a un collega, che fino a prova contraria è un collega. Vabbè, quello è un altro discorso, a chiunque. Francamente, secondo me, non usando pagliaccio o maschera, come dice David, che fa una giusta provocazione, ma non lo dice maschera o pagliaccio, io sarei stato anche d'accordo. Cioè, voglio dire, non sì, però mi sembra perché poi queste cose adesso guarda, a me di difendere Mentana in quanto Mentana non me ne frega niente, non ho nessun timore reverenziale, il punto non è quello, dico le cose, dico quello che penso, probabilmente è stato certamente nei confronti di Auriemma arrogante, nel senso che lo considera un pagliaccio mentre lui si considera un esperto di calcio, lui lo considera uno da bar, uno da discussione feroce e basta, e quello vabbè ci sta, ma quello è un altro discorso. Però vederci un pregiudizio nei confronti dei napoletani, questo è un po' vittimismo. Giuseppe, aspetta, non rovescio, come mai facciamo sempre questi discorsi? Cioè, come mai? Ma no, ma offesi, si parla anche dei... Come mai ad essere offesi sono sempre i napoletani? Parlo pure della discriminazione territoriale. Ci stiamo sempre a dire, io non so se vi è mai capitato di stare in uno stadio mentre insultano per 90 minuti la città di Napoli. Regolarmente si insultano, ma quello succede squadre con i romani, succede no, anche no, non è vero, non è vero, non è assolutamente vero, questo non succede con i romani. E allora là la distinzione territoriale viene derubricata, nel caso dei napoletani, quando si sente Vesuvio lavati col fuoco, viene derubricata a cori da stadio, gazzarre da tifosi, e invece purtroppo è razzismo, per questo. Va bene, giornale radio, grazie Boris, 800 24 00 24, ragazzi, l'altro numero magico ve lo ricordo sempre, 393 71 71 701. Ciao Cruciani, voglio solo dirti una cosa, gentilmente, ti prego, ti supplico, parliamo di figa, non me ne frega un cazzo del coniglio. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento La Zanzara. Luciani, ho fatto il bagnino per 8 anni e ne ho visto di tette e culi, quindi dovrei aver stuprato un casino di ragazze, secondo questa signora, insomma, Salvi, come ha detto lei. Vabbè, saluti! Ma sì, tutte queste che si coprono è perché sono dei cessi emeriti, abbastanza semplice, dai. Cruciani, te fai come ti pare, ma io, mia figlia a 16 anni in discoteca con la gonnellina, i tacchi alti, mezza nuda, no, ma proprio no. Allora, caro Parenzo, gira una roba bellissima, su, tu sicuramente la penserai che è blasfema, su web, eccetera, eccetera, già eccetera. Il parere mio preventivo. Sì, sicuro, sicuro. Allora, c'è una bambolina islamica, non so se l'hai vista questa cosa qua, non stupenda. Una bambolina islamica. Ho avuto, diciamo, da fare oggi pomeriggio con... sì, forse, non si può dire, non si può dire, non se ne può parlare, non se ne può parlare. C'è un diktat, non te l'hanno detto che c'è un diktat che no, non si può parlare? No, ma oggi c'era il direttore napoletano qui, sono andato su da lui. Sì, sì, ma non è si qua. Può... Non si è può... qua, amico mio! Lo so, ma era qui, sono andato solo a salutarlo, ho accompagnato queste persone. Era qui su. Sì, allora c'è una bambolina musulmana. Ah, Cruciani, guarda, Cruciani, devi... Vabbè, te lo dico dopo, dai. No, no, dimmi, Cruciani, che ha detto? Cruciani. Io devi dire, Cruciani, io devi dire. Basta! Basta! Io devi dire. Allora, una bambolina musulmana c'è, cioè vestita col velo, no, e tutto. No, questo è così. Aspetta, ultima novità di Natale. Aspetta, ultima novità di Natale. Sai, le bamboline spesso hanno quella specie di cordicina per parlare, no? Le bamboline, quelle che comprano i ragazzini. L'ultima novità di Natale, la bambola musulmana che parla. E vabbè, uno dice bellissima, no? Multiculturalismo. Hanno fatto anche la bambolina musulmana. Leggi sotto. Ma nessuno sa cosa dice. Tu sai perché? No. Perché finora nessuno ha avuto il coraggio di tirare la cordicina. Sai che non ho capito, scusa? Ma dai, su. David, lui, c'è una bambolina musulmana. Ho capito. L'ultima novità di Natale, la bambola musulmana che parla, ma nessuno sa cosa dice, perché finora nessuno ha avuto il coraggio di tirare la cordicina. A me non fa ridere, però. È stupenda, la trovo meravigliosa. Beh, adesso non si può ridere nemmeno di queste cose? No, me lo fa ridere. Dai, su! Ma ho il diritto di non ridere? Sì, sì, per carità. Se posso, se invece devo ridere, se vuoi rido. No, vabbè, ma tu rido, non rido. Se vuoi rido. Dai, fortissima, dai. La trovo come quelle barzellette che si dicono contro gli ebrei, quei robini. Ma no, no, dai. Comunque. Ragazzi, ma il protagonista vero, il numero uno assoluto, è stato ieri sera qui alla Zanzara un nutrizionista, chiamiamolo nutrizionista, un dietologo. Beh, fantastico, un personaggio meraviglioso. Per chi se lo fosse perso, un breve riassunto sonoro. Lui si chiama Lemme e sostiene che si può dimagrire anche mangiandosi i bombolotti con la crema la mattina. Pasta quelli la mattina, fatti da lui però, eccetera, eccetera. Però la cosa più bella è la sua considerazione sulle donne, cioè secondo lui le donne sono esseri inferiori. Questo è uno che va da Vespa, io l'ho eletto a mio numero uno, ma soprattutto perché dice quello che pensa, non gliene frega una mazza delle mediazioni, dei rapporti. Probabilmente magari ci sono un sacco di donne che si rivolgono a lui e che vanno a fare la dieta da lui, e da adesso in poi non ci andranno per le cose che dice sulle donne, che pensa sulle donne. Secondo me non gliene frega assolutamente nulla, e le persone anzi continueranno ad andare da lui. Però Lemme, un dietologo, è andato a vedere Google. Lemme, professor Lemme, abita in Brianza, da queste parti qui, a Monza mi sembra, se non sbaglio. Vabbè, insomma, Lemme e le donne. Realmente la donna ha un cervello emotivo e quindi, siccome l'emotività blocca l'evoluzione dell'essere umano, ho fatto un capitolo dedicato alle donne, ho scritto che le donne sono esseri inferiori non come mentalità, ma perché hanno un cervello emotivo. Cioè hanno, ma anche un cervelletto, possiamo dirlo, anche un cervello piccolo piccolo, no? Ma che è più piccolo del maschio lo sanno tutti, no? Ma come più piccolo del maschio? Sì. C'hanno un cervello più piccolo, sul serio? Sì. Secondo lei sono esseri inferiori, diciamolo tutta. Diciamolo, sono esseri inferiori. Hanno un cervello emotivo. Cioè l'uomo è su un altro livello, diciamo. È un altro livello. Certo, uno tra maschi si capisce subito, riuscite mai a parlare e capisci con una donna. Chi ha inventato il motoroscopio l'ha inventato un maschio. Sì. Chi ha inventato il telefono l'ha inventato un maschio. Chi ha inventato tutte quelle cose che le donne usano? Sì. Per stare a stire, la lavatrice, la lavastoviglie e così via. Un maschio. Perché la donna rompe le palle al marito e dice inventami qua, e lui inventava. La donna ha mai fatto nulla. Mi sto spiegando? Sì, la donna non ha mai fatto nulla, è molto chiaro. Non ha mai inventato nulla. Non ha mai inventato niente. Quando entra una donna in studio, dice, ma lei è una gran testa di donna. Cioè, invece di dire testa di cazzo? Esatto, perché dipende dal tono in cui tu lo dici, no? Io non ti permetterei mai di dire a una donna testa di cazzo. Il lavoro più antico del mondo, qual è? La prostituzione. Sì. No? Anche lì le abbiamo fottute. Vanno di più i trans che le femmine. Questa l'ho trovata geniale. Adesso, al di là delle considerazioni che ha fatto sul cervello più piccolo delle donne, che sono inadatte, non hanno inventato un cazzo, eccetera, eccetera. Tu dici razzismo puro nei confronti delle donne, no? Roba da anni 50, da anni 60, 70. No, ma che razzismo? Non uso il termine del razzismo. Vabbè, follia comunque, pura, dai. Follia. Però al di là di questo, la battuta sui trans l'abbiamo fottuta anche nel campo della prostituzione, perché vanno più di moda i trans piuttosto che le donne. Devo dire che è geniale. Cioè, devo dire che è geniale. Andiamo a Grosseto. Daniel, vai. Buonasera Cruciani e Parenzo, sì. Andiamo subito al sodo. Ti volevo riportare l'ipocrisia che aleggia in una gran parte dei vegani / vegetariani. Cioè? Perché se ti pensi, queste persone che amano la vita degli animali, poi sono le stesse che ti minacciano di morte quando ti mangi il coniglio. Capito? Quindi anche ma non è ipocrisia, per loro gli esseri umani sono che mangiano sono... Com'è che li chiamano mangiacadaveri? È una cosa che mi fa impazzire quando uno mi dà del mangiacadaveri. Beh, tecnicamente è vero che è un cadavere, sì, ma... quello lì, e quindi non ti potrebbe dare noia. No, però loro te lo dicono in senso, tu sei un mangiacadaveri. Ma e uno dice, sono zombie, mi sono trasformato, che ho fatto? Ho mangiato la carne, ho mangiato il pesce, sei un mangiacadaveri. Te lo dicono perché danno alla parola cadavere un senso, sì, capito? Una sorta di devozione. Hai mangiato il cadavere di un uomo, è come se avessi mangiato un uomo, un essere vivente, per loro. Hai mangiato un essere vivente, cioè che mangiato un essere vivente. Tecnicamente, sì, tecnicamente è vero, sì, ho capito, adesso non mi fa la morale, però su tecnicamente la è vero, morale, è ridicolo, sto dicendo dai. Esattamente come facciamo. Scusami, ma è un essere vivente? Risposta, sì. È un essere senziente? Beh, anche perché se tu gli dici vieni qui, spesso no, al coniglietto viene lì, no? Sì, d'accordo, però dai su, cioè, ma cosa vuol dire dai su? Vabbè, tecnicamente comunque, tecnicamente sono mangiacadaveri, tutti noi siamo mangiacadaveri, è vero. Ma allora certo, io dico che anche loro che mangiano carne. Le verdure sono mangiacadaveri, perché anche le verdure muoiono, anche ma le verdure... non hanno un sistema neuronale di neuroni. Vabbè, Daniel, che vuoi dire ancora? Più che altro, cioè, perché loro ti minacciano di morte? Cioè, ti vorrebbero ammazzare. Vabbè, quando un coniglio che ha la questo, vita i pazzi ci sono dappertutto. Certo, non esiste una persona carnivora che minaccia di morte un vegano, invece esiste un vegano che minaccia di morte una persona carnivora. Sì, e questo fa parte del loro estremismo. Cioè, è un movimento nei suoi estremi, è un movimento nazistoide. Cioè, è un movimento sì, è un movimento estremista, nazistoide, assolutista, cioè vorrebbe un mondo tutto uguale in cui non si mangia la carne, eccetera, perché considera mangiare la carne una sorta di spreco pazzesco, la rovina del mondo. Ovviamente non è vero, si potrebbero citare 40 milioni di studi, ma qui non voglio annoiare nessuno, ma è un movimento chiaramente di carattere nazistoide nei suoi estremi, che però in questo caso spesso vanno a braccetto, cioè quelli più moderati e quelli gli estremisti non sono così diversi poi, cioè vengono invitati nelle trasmissioni, dicono le cose più orribili in maniera molto semplice. Sì. Dice no, cioè dicono le cose, ah, ma voi mangiate i cadaveri, mangiate gli esseri umani, e lo dicono in maniera così come se nulla fosse, capito? Ma come, mi stai accusando di uccidere? dire? Cioè, mi stai accusando di essere un assassino e io non ti devo dire nulla. Usano un linguaggio colorato, un linguaggio colorato, come potremmo usare noi. Giuliano da Roma, ma io infatti non discuto questo, dico che sono nazistoidi, ma io non dico le baggianate che dicono nazistoidi. Giuliano da Roma. Niente, i nazisti erano una roba schifosa. Buonasera, vi prendo solo un minuto per concordare un po' con la posizione dell'amico Boris Sollazzo, ma è solo un minuto, perché l'affermazione di Mentana mi sembra l'affermazione di un grande ignorante che non conosce la figura di Pulcinella, che la utilizza in modo così chiacchierato, non sa nulla e attribuisce ad Auriemma la pulcinellità come se fosse uno spregio e un difetto, invece la figura di Pulcinella è fondamentale per la cultura. Ma sì, ma è come dire non fare il clown. Parenzo, lei conosce i dipinti di Tiepolo di Pulcinella. Da ma lì, certo, ma era come dire non fare il clown. Parenzo, me ne dica uno. Ma scusami, cosa vuol dire? La fucilazione di Pulcinella di Tiepolo. Ma nessuno mette in discussione la maschera di Pulcinella, ma era sinonimo di clown, no? È come dire la commedia dell'arte. Giuliano, lei è napoletano? Tu sei napoletano? Sono romano, come Sollazzo e tifoso del Napoli, come Sollazzo siamo amici. Non ho capito, dire Pulcinella. Devono chiamare dire c'è l'insurrezione popolare dei napoletani. Se uno dice ad Auriemma, sei un pagliaccio. È un uomo ignorante, è un giornalista ignorante, non sa quello che dice e crede di insultare facendo un complimento a qualcuno. È molto semplice, cioè diamo dell'ignorante a chi lo è, non c'è niente di male, andasse a studiare che cos'è una figura che ha fondato anche la cultura italiana. Mi ha fatto una battuta, ma che c'entra chi era Pulcinella? È una cretinaggine, poteva dirne altre. Ma è come dire clown, maschera, non fare il teatro. Parenzo. Ah, perché Pulcinella non era la maschera del teatro? Ma di cosa stiamo discutendo? È una maschera profonda del teatro. Ma non è un'esegesi teatrale, ma che c'entra? È una maschera profonda, però anche tu non dire stronzate. Perché è teatro? Matteo Milano, silenzio. Buonasera. Matteo Milano, dimmi. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io rispondo all'ascoltatore che mi ha appena preceduto e dico che la penso esattamente all'opposto, cioè? Perché secondo me Mentana, pur se ha fatto un'uscita inelegante e anche un po' arrogante, non ha detto niente di particolarmente offensivo. Francamente non vedo tutta la necessità di fare questa tempesta in un bicchiere d'acqua per una frase che secondo me non voleva essere addirittura qualcuno pensa di tutti gli napoletani, anche perché allora tutti i vicentini che vengono definiti mangiagatti che dovrebbero fare. Ragazzi, ma sono puttanate. Io dico una cosa. Che stupidaggine. Mentana ed Auriemma risolvessero i problemi tra di loro, nel senso se quello si sente offeso, eccetera. Però la parola Pulcinella, dire qualcuno Pulcinella, non può essere paragonato come ha fatto Sollazzo a dire negro a qualcuno. Appunto. È ridicolo, dai. Cioè, voleva dire che è un po' pagliaccesco. E quello là, se Auriemma si sente offeso, si rivolgesse al tribunale. Che è una maschera teatrale. Non so dove. Sì, d'accordo. Vuol dire l'arroganza di Mentana nei confronti di Auriemma è sotto gli occhi di tutti. Per me va benissimo, ma è chiaro, che lo considera della Treccani, no? Sì, è chiaro che ma che vuoi dire con questo? Ma che lo voglio dire anche a te, cioè, ma che andati lì a combattere. Ma è molto anche meglio andare a Tiki-Taka che andare a linea notte, scusa, amico mio. Ma ti ho detto, su, ma queste sono due robe diverse. Ho detto semplicemente che come qui non è che si fa una riflessione sulla geopolitica alla Limes. Uno viene qui, accetta le regole di ingaggio. A Tiki-Taka uno va lì, discute di calcio. Cioè, se ti dà il Pulcinella non ti devi offendere. Quello faceva il superiore dicendo io capisco di calcio, tu se invece sei un buffone, questo è il punto, dai. Ma no, fermi tutti, pubblicità. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Cruciani, devi parlare di più dei piedi delle donne, non dar retta a Parenzo, è vecchio dentro quello lì. Cruciani, ma tutti sti vegani che dicono che mangiando erba trombano meglio, ma a me Rocco Siffredi non mi sembra vegano. Amico mio, io con due fette di carne di cavallo trombo come un riccio trombo. Ragazzi, devo ringraziare in questi giorni tutti quelli che hanno sostenuto la nostra campagna, che continua, per carità, fino la tua campagna. Beh, la mia, ma tu fai parte di questa trasmissione, inutile. No, no, certo, io ti sostengo pur ribadendo che non mangio il coniglio, però. Vabbè, ma che c'entra quello? Quello ognuno può mangiarlo, figurati se dico che bisogna mangiarlo per forza. E per quelli che ancora non avessero capito, come molti che mi scrivono, leggi qua, leggi questa cosa qui, non fai altro che dare spazio a questi fondamentalisti animalisti, non esistono solo questi. Io dico semplicemente una cosa e la ripeto per l'ennesima volta, tutto quello che abbiamo detto, fatto sulla vicenda del coniglio è stata fatta non così per puro esibizionismo, che tra l'altro, voglio dire, fa parte anche del gioco e della vita l'esibizionismo, cioè non va assolutamente condannato, ma non è per puro esibizionismo, che pure c'è in una trasmissione che fa parte del cosiddetto showbiz. È inutile che fate tanto i signorini, è inutile, non è che stiamo qui a pettinare le bambole, nessuno fa niente per la gloria o così per, o solo per convincimento, si fanno le due cose insieme. Noi diciamo quello che pensiamo perché siamo convinti di alcune cose, non è che diciamo delle cose così solamente per lo spettacolo, ma in realtà c'è una campagna che vuole proibire il coniglio come cibo, sì, equiparando il coniglio al cane e al gatto. Noi non siamo d'accordo e legittimamente, facendo azioni anche dimostrative come fanno gli animalisti, perché gli animalisti, quelli più convinti, fanno azioni dimostrative. Cioè, usiamo le stesse armi praticamente, usiamo armi le stesse, esatto, conigli pari, esatto, usiamo a le stesse pari, armi, come si dice, che sono quelle di mostrare che cosa, un coniglio comprato a una macelleria, no, che era già morto per uno specifico, che era già magari morto, non c'è dubbio, cioè, quello, E poi cucinato, per dire noi vogliamo continuare a mangiare il coniglio, tutto qui. Se voi non lo volete mangiare, volete mangiare l'erba, volete mangiare che ne so, c'è il tofu, il seitan, che io ogni tanto mangio, perché io ogni tanto il seitan, io mangio uno splendido spezzatino di seitan, ogni tanto vado al supermercato, compro uno spezzatino di seitan, sì certo, buonissimo, col sugo, ogni tanto mangio uno spezzatino, mi piace variare. Per esempio l'altro giorno ho incontrato il mio amico che era andato a una trattoria che si chiama Gioia qui a Milano, dove non vado da un sacco di anni, vicino a casa mia, dove c'è un cuoco vegano indiano dietro, una signora anziana che un'amichetta, che con io ci andrei a registrare delle cose, a dire le cose tremende contro i vegani, voglio vedere che succede, uno bisognerebbe andare e cominciare a dire delle cose tremende contro i vegani. Intanto ci sono andato in questo ristorante, ma non c'è niente di strano, il punto sono loro i fondamentalisti. Mi voglio fare una dose di Montanini, una dose di Montanini sugli animalisti, ne ho bisogno. Io non sopporto, detesto i vegani, però ci sono due motivi, uno personale, uno universale. Quello personale è questa Bori, lo so che ci stanno i vegani, lo so che ci stanno i vegani, mimetizzati, ma uno è personale, e cioè questa boria che hanno i vegani, che nella vita possono pure aver ragione, perché uno che vuole salvare tutte le forme di vita è bello come concetto, ma questa boria da insegnarlo a tutti che loro conoscono la verità mi dà fastidio. Chi ama tantissimo gli animali, ma tantissimo gli animali, per un bilanciamento emotivo è costretto a odiare qualcos'altro. Perché se tu ami tantissimo una cosa, per forza devi odiare qualcos'altro. Il brutto che è che qualcos'altro potresti essere tu. E questo è il brutto dei vegani. Siamo l'unica specie vivente che riesce a amare altre specie piuttosto che la propria. Un leone, se vede mangiare un altro leone, cioè un cristiano viene mangiato da un leone, non è che un altro leone fa: oh Simba, che stai a fa? Questo cristiano deve campare, no? Se delinque, perché non c'ha diritto alla vita? Non lo farà mai. Non ti trovare nella savana da solo, perché non succede. Non ci sta un leone vegano che ti salva. Nella prima edizione di Amico Pubblico, che è successo? Io ho insultato Valentino Rossi, Balotelli, non ricordo benissimo, ho fatto un pezzo sulle puttane, non si è incazzato nessuno. L'unica veramente categoria, associazione che si è incazzata è stata quella degli animalisti. Sempre loro, sempre loro. Guarda, è proprio, non c'hanno un cazzo da fare, guarda. È una cosa incredibile. Ma giuro, si sono incazzati come le bestie. Ah, che sembra più. Sembrano come noi, gli animalisti. Li riconoscete a dicembre perché portano il loro cagnolino e gli mettono il cappottino d'inverno. Tu dici, cazzo, perché ridicolizzi il tuo cane in questa maniera? Vaffanculo, non c'ha bisogno di questa cosa. Ah, perché non lo sai, il mio cane, se no, sente? Sente? Freddo! Io ho detto, scusa, come ha fatto la razza canina a campare decine di migliaia di anni senza di te? Scienziato, eh? Genio puro, Beatrice da Bari, vai, Beatrice. Ciao, ciao carissimi. Allora, dimmi, quanti anni hai? 20, non è un'altra che mi hanno mandato qua per finta, no? Perché mi hanno fatto chiamare da due finte diciottenni o diciannovenni. Vabbè, lasciamo perdere. No, assolutamente. Dimmi. Dice, chi è, chi è che ti ha fatto il trappolone? Non lo so. Trappolone ti hanno fatto. Beatrice, dimmi. Volevo dire, vabbè, per la frase di introduzione, alla fine. Ma che c'hai? Che fai con questo telefono? Non egoismo. Gli uomini per egoismo devono andare, insomma, a cagare le donne, lo stesso vale per le donne con gli uomini. Però questa è solo una frase di introduzione, perché volevo parlare del famoso Lemme. Lemme, sì, che t'ha detto? Famoso Lemme, io lo vorrei chiamare Lemma più che altro, perché mi sembra tanto il dilemma della società, perché è veramente un essere involuto, giacché l'involuzione vera è proprio lui. Giacché, io adoro giacché, giacché. Quando uno dice giacché, andremo d'accordo. È una cosa pugliese, giacché. Vabbè, Beatrice, allora dimmi che c'è. Ti sta sul cazzo Lemme perché ti sta sul cazzo Lemme perché insulta le donne dicendo che sono inferiori, questo, eccetera. Oltre questo, perché io credo di aver mandato un amico da questo famoso Lemma. Però l'unica cosa che è diminuita nella sua dieta sono state le parti intime, il suo pene praticamente. Ma che ne sai tu? Che ne sai, scusa? Me l'ha detto. Cioè, non ho capito, spiegami bene, riassumi bene la situazione. Ma dai. Ti pare normale? Ma non è vero. Evidentemente i discorsi che gli ha fatto maschilisti, eccetera, ha provocato la riduzione del... Cioè, non ho capito, un tuo amico è andato? Sì. Un tuo amico è andato a fare una cura dimagrante da Lemme, che è successo? Gli è diminuito solo là, quindi io lo sconsiglio, mi raccomando. Gli è diminuito. Questo è terrorismo. Ma dai, questo adesso è terrorismo, cioè, è una forma di terrorismo. Gli si è ristretto il pene, ma questo qua non è vero, non è possibile, dai. Poi vabbè, volevo anche dire che ferma con sto telefono, capito, che si sente casino, non toccare. Poverina, non aggredirla. Abbiamo capito che Lemme, insomma, va anche a trans, vabbè, questo era ovvio. Che ne sai, insomma, che va a trans? Ha detto semplicemente che le trans hanno sostituito le donne nell'immaginario di chi va a prostitute, che è vero. Vabbè, per lei questa non è una spia dell'andare a trans, insomma. Ah, tu dici che va a trans alla fine, ti piacciono i trans. Non io l'ho chiesto, però è vero, Beatrice, mi hai dato un'idea. Ciao, Beatrice. Enrico Verona, vai, Enrico. Ah, Cruciani, ma quanto stai sulle palle, quanto ti metti a insultare sti cacchi di vegetariani e vegani? Io non ma... insulto nessuno, sono loro che minacciano di morte me, amico mio, è diversa, aspetta, la cosa, aspetta. È un po' diversa. Ma te le cerchi, ma posso dirtelo? Ma porca puttana, ma certo che te le cerchi, ma tu sai cosa c'è dietro un qualcosa di vegetariano? Da che fare il vegano? Io sono con te sul veganesimo, non è una cosa che mi appassiona. Ma il vegetariano, non fermate al fatto del coniglio. Ma guarda che io non ho nulla contro chi fa il vegetariano, contro chi vuole. Ma non è che hai nulla, ma serviva proprio quel cazzo di coniglio in trasmissione. Ma che vuol dire servivo o non servivo? Qui non è che si discute, serve. A chi dovrebbe servire? Scusa, spiegami. Ma perché deve andare a mostrare un ma perché è solo così che si è solo in questo modo, anche con cose dimostrate. Mica faccio il politico io, cioè. Ma non è che devi fare il politico. Cioè, non è che sono faccio il conduttore di uno show radiofonico, non è che faccio l'educatore, cioè. Ma perfetto, ma Il mio modo, non c'è nessun messaggio. Voglio continuare a mangiare il coniglio, Cruciani. Non rompere i coglioni. Non c'è nessun messaggio che voglio dare. Ma stai sul cazzo quando fai così? Perché? Ma ti starò pure sul cazzo, ma è così. La realtà è questa. Voglio continuare a mangiare il coniglio. E siccome questi che fanno una campagna contro, io faccio una, faccio una campagna a favore del coniglio cotto. Ma io non te lo impedisco. Ma basta. Benissimo se tu fai la campagna, ma la faccio in questo modo. Perfetto, ma gli estremismi, come tu mi insegni, ma qualche c'entra, ma non è un estremismo. Io ho fatto vedere quello che c'è in tutte le macellerie italiane: un coniglio morto, me lo sono fatto cucinare davanti alle telecamere. Non si può, allora perché non vanno a rompere i coglioni a MasterChef o a tutti i programmi di cucina che ci sono nelle televisioni italiane, dove ovviamente per gioco, per lo show business, ammazzano gli animali? È perché è quello che succede, no? Perché non vanno a fare così, no, casino là, signori animalisti? Ciao, benissimo. ciao. Non dire parolacce. La Zanzara. Ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Allora, Davide, io proverei a chiamare un allevatore di conigli. Un allevatore di conigli, perché ancora non li abbiamo sentiti, cioè abbiamo sentito qualcuno che ci ha chiamato. Questo allevatore di conigli mi ha mandato un messaggio l'altro giorno, lasciandomi un numero di telefono, speriamo che risponda. Mi ha lasciato il suo numero di telefono e questo signore è un grande allevatore di conigli, cioè ne coltiva, credo, da quello che mi ha detto, ne alleva oltre 5.000. Si chiama Luigi, però vuole mantenere un certo anonimato sulla zona dove alleva i conigli, eccetera eccetera. Pronto? Luigi, sono Cruciani, salve, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, devo dire bene. Lei ha un allevamento di conigli, scusi? Io faccio solo l'allevatore, dopodiché c'è il macellatore che fa il macellatore. Lei li ingrassa per il macello sostanzialmente? Sì, io li allevo e dopodiché vengono venduti vivi, io li vendo vivi. Senta, li alleva per la morte? Io li allevo per la morte, io li allevo perché è il mio lavoro. Tecnicamente però l'allevatore cosa fa? Come prepara il coniglio perché poi il coniglio si è ucciso. Che così è, lo alleva, sì, cioè gli dà da mangiare. Come che fanno tutti gli altri allevatori di tutti gli altri tipi di carne. La cosa curiosa, Luigi, è che tu non vuoi dire di dove sei, sì, perché poi hai paura delle ritorsioni, il che già è abbastanza significativo, o no? Diciamo che so per certo di altri allevatori che qualche tempo fa gli animalisti sono entrati nei capannoni e gli hanno fatto diversi danni dentro negli impianti. Hai detto che questa gente è più terrorista che animalista. Sì. E di conseguenza io ho paura di questa gente. Cioè, come li consideri tu gli animalisti, questi che stanno facendo la campagna contro il coniglio? Secondo me, cioè, ci sono dei terroristi, ci sono che hanno le proprie idee, però io dico che bisogna rispettare tutti, ma loro devono rispettare anche quello che sta facendo qualcos'altro, perché sennò non è più una democrazia ma è una dittatura, e quindi... Lei non si sente di uccidere qualcuno? Cioè, lei non ha questa sensazione? No, io faccio il mio lavoro, se dopo devo uccidere un coniglio per mangiarlo, cioè non è che non mi tiro indietro, io lo faccio perché secondo me il coniglio è una carne che mi piace tantissimo e di conseguenza io lo faccio, io mangio i miei conigli che allevo. Quanti ne alleva lei per venderli invece? Vendo sui 7-8 mila conigli ogni 20 giorni. Beh, c'ho un allevamento grosso. 8 mila conigli in 20 giorni. Cioè, se dovesse passare questa iniziativa di legge, questa roba di proibire il coniglio, eccetera, lei sarebbe rovinato. No, io sono rovinato se passa questo, ma mi auguro che la gente abbia ancora un po' di buonsenso in testa. Quindi, ma non sono solo io rovinato, perché siamo 500-600 allevatori in Italia. Sì. Ci sono 2.000 persone, due e più, che lavorano intorno al coniglio e di conseguenza non sono solo io rovinato, andiamo a rovinare un comparto abbastanza importante. Sì, ma vi rendete conto di quello che succede? Cioè, queste persone qui che fanno il loro lavoro passano e non è un lavoro da macellai nel senso deteriore del termine, cioè non è un lavoro da aguzzini, cioè non è il lager come lo dipingono molti, no? Perché paragonano gli animalisti, paragonano. Ma che lager, dai! No, lager, paragonano parole corrette. Corretto, esatto, su. Esatto, dai, esatto. Paragonano questo signore a una specie di aguzzina, una specie di sergente nazista, una specie di macellaio dell'SS e uno che fa il suo mestiere. Io sono sicuro che lui ama i conigli, o sbaglio? Certo che li amo, guarda, io adesso qua ce n'ho uno proprio sotto i piedi perché mi sta qua libero in mezzo al mio cortile. Sì. Cammina insieme a me. Questo qua è il mio amico. Gli altri mi danno da vivere, di conseguenza. E questo qui non verrà mai, questo coniglio. Come si chiama sto coniglio, suo amico? Ma vuoi che io gli vada a mettere un nome anche al coniglio adesso? Siccome tu sai, li ammazzi tu stesso per il tuo consumo. E poi quelli che vendi sai che vanno al macello, dunque vengono ammazzati. Non pensi mai alla sofferenza di questi, o secondo te non soffrono? Secondo me non soffrono per il semplice motivo che se vengono fatte le cose correttamente l'animale non soffre. Io dico una cosa sola, sì. Il mio lavoro è autorizzato dal Ministero della Salute. Ma certo, ma non c'è dubbio. Il macellatore è autorizzato dal Ministero della Salute, di conseguenza stiamo discutendo di cose che non so. Però Luigi, c'è una cosa, c'è un'associazione che fa una campagna dicendo che ci sono gli allevamenti intensivi che trattano i conigli come senza regole, senza controllo, senza spazio. Ho visto anch'io quel filmato. È una puttanata? No, quel filmato là secondo me è un abuso di potere nei confronti della gente. Quelle là sì sono terrorismo, è puro terrorismo nei confronti di un comparto che in realtà non è così, tutto qua. Questo è il concetto. Cioè, qui dici in un breve arco di tempo un coniglio destinato a finire nel piatto deve passare dal peso iniziale di circa 50 grammi a 2,5 kg. È quello che fai anche tu, sì o no? Sì, beh, l'allevamento è quello là. Sì, non è che ci inventiamo niente. Cioè, anche tu li fai ingrassare allora? Questo qua è scritto dappertutto, se vuoi fare l'allevatore questo devi fare. Cioè devi far ingrassare il coniglio, non è una cosa contro la legge. io ho i controlli dell'ULS 3 volte alla settimana nel mio allevamento, attenzione, quindi dico, se qualcuno mi dicesse che io sto facendo qualcosa fuori legge, sono il primo a smettere, ma sì. finché la legge mi autorizza con tanto di certificati, con tante di cose a fare il mio lavoro, io lo faccio con passione, lo faccio bene, cerco di non maltrattare i miei animali, perché i miei animali sono quelli che mi danno il reddito, quindi se li maltratto non mi danno più reddito, sì. Vengono tenuti meglio di quello che mi tengo io, di conseguenza la pulizia. Cioè li tratto meglio di me addirittura. Beh, adesso questo insomma. Luigi, senti una cosa, ma tu non hai mai avuto un momento di pentimento, un momento che faccio un altro lavoro, no? No, perché questo lavoro mi piace, a me piace allevare il coniglio. Però bisogna dire una cosa chiara, io sono un allevatore di coniglio e amo i conigli, perché questo è fondamentale, secondo me. Io amo quello che faccio, se no non lo farei. Dunque, ami i conigli. Guardate che fare l'allevatore di conigli non è semplice, attenzione, io qua ci sto 15 ore al giorno. Come si ammazza un coniglio? Sono curioso. Beh, a casa io gli do una semplice botta nella testa. Quindi lo stordisco e dopodiché li faccio levare il sangue, tutto là, in maniera che una botta secca l'animale non sente più niente. Cioè, come dire, muore con una botta secca? È come tu prendi una botta su per un muro e rimani là, non ti accorgi neanche cosa è successo. Dopo si fa quello che bisogna fare, logicamente non si mangia con la pelle. Viene tolta la pelle e tutto là. E poi si taglia a pezzetti. La testa la mangi? Sì, è buonissima. Lo so, me l'hanno detto, io non l'ho mai provata. È la parte migliore, c'ha tante ossa, ma è la parte migliore. Ti abbraccio, a presto, forza, eh? Va bene, sì, forza, sì, da noi forza. Forza, io mi raccomando, voi dacci. A me lo dici, io farò di tutto perché non passi questa roba qua, figuriamoci. Io mi auguro perché, ripeto, non sono solo io, ma siamo in tanti che vivono su questa cosa qua, quindi ha forse senso abolire il coniglio qua? E dopo chi continua a mangiare il coniglio lo compra e viene dalla Cina o viene da qualche altro stato estero? Tu stai dicendo una cosa interessante, cioè stai dicendo se si proibisce, la vendita e la commercializzazione e come dire il cibo, bisogna proibire anche di mangiare il coniglio, bisogna proibire tutto a sto punto. Bisogna vedere poi da dove arrivano i conigli, perché la gente continuerà a mangiarli, non c'è dubbio. Bene, e di conseguenza dopo il controllo dov'è? E ora cosa facciamo? Va bene, ciao Luigi, presto, ciao. Ciao. La Zanzara. Eccoci qua ragazzi, ritorniamo con Mauro da Mantova. Non so se è il famoso Mauro Parenzo, non lo so perché ho altre indicazioni qui. Mauro, chi è? Chi è? Ma chi è che parla? Ah, sei tu, Mauro, sei tu. Io se chi cazzo che sia? Che ne so, Mauro da Mantova, non è che esisti solo tu da Mantova, Purtroppo sì, è un marchio di fabbrica. Vai, Mauro, dimmi caro, dimmi. Hai tirato la catena? Ma possibile? Ma mai una volta che ti ricordi tirare la catena? Gli stronzi devono andare nella biologica, altrimenti puzzano. Te lo devo sempre dire, Giuseppe. Ma a chi ti riferisci, scusa, Mauro? Ma lo stronzo che c'è lì vicino. Ancora con sta cosa. Ma lui è così. Ma rinnova il repertorio, amico mio, rinnova il repertorio. Lui è nato stronzo, è buona merda. Perché lui è un codardo, lui ha mandato le talpe. Io so che lui ha mandato le talpe. In che senso ha mandato le talpe, scusa? Venerdì c'erano due talpe, ma le ho localizzate subito. Ah, la festa dei fan club, dici? C'erano due talpe. Io le ho localizzate. Ma sei mitomane, non è vero, non c'è nessuna talpa. Lui ha mandato due talpe. Ma che talpe? Ma devi sapere, caro Davide. Devi sapere, caro Davide, che. Perché il coniglio ce l'hai lì. Il coniglio tu ce l'hai lì. Sì, deve ringraziare, avevo di meglio da fare. Se fosse venuto lì, cosa vuoi ringraziare il coniglio? Gli avrei tirato una di quelle testate che lo ricoveravano al Fatto Bene Fratelli. Guarda, allora devi. Figlio a schiaffi. Devi sapere che. E non parlare con me, che sei un coglione. Devi sapere che Mauro gira con una serie di ritagli di giornale vecchissimi per dimostrare le sue tesi su De Benedetti, tutte queste robe qua. No, ragazzi, stiamo alla ma ritagli di giornale, ritagli di giornale vecchi degli anni 90. Ma sei tu che lo frequenti, sto povero Marco. Ma capisco che non avendo nessuno. Fai anche un'opera di bene, Cruciani, perché è un poveretto, un miserabile, uno che non ha famiglia, uno che è da solo. Quindi fai bene tu a ogni tanto a portare il vino. Ma che è un povero malato mentale? Mauro, sai quando si ha il parente matto da solo, no? Che cosa? Dove Mazzoli? Mazzoli. No, lascia perdere Mazzoli. No, lascia perdere. No, lascia perdere Mazzoli. Non mi interessa adesso lo Zodi 105. Mauro, no, ma che cosa? Non mi fa nessuna guerra. Non mi fa nessuna. Mauro, basta, non voglio parlare di Mazzoli. Non voglio casini con Mazzoli, dai, su. Non c'è bisogno. Oddio, Mauro, non voglio casini. Non voglio casini perché non ho bisogno di casini. Dai. No, ma io non so, soprattutto creati da altri. Se voglio fare la guerra a qualcuno, la faccio. Non faccio guerra io, faccio battaglie di pensiero, faccio battaglie di idee, faccio battaglie. Ma sai che c'è? Ma sai che c'è? Giuseppe, quel gatto in testa, sai che c'è? Ma sai che c'è? Ma che fai? Lo imiti? Lo imiti? Ma sai che c'è? Ma sai che sono tutti all'ucciso? Ma sai che le torri gemelle? Ma sai che c'è? Ma sai che le torri gemelle hanno tirato giù gli animalisti con i vegani? Sai che c'è? Ma sai che è stata Pisapia? Quella merda. Ma sai che è stato Pisapia a tirare giù le torri gemelle? Ma sai che c'è? Adesso. Ma sai che c'è? Aspetta, ma Mauro, fammi sentire la tua imitazione di Valenza. Sai che c'è? Sai che c'è? Tagliati quel gatto dalla testa, Crociani, sei cretino. Ma sai che Pisapia ha dato fuoco al Duomo di Milano? Lo sai o no che Pisapia ha dato fuoco? No, non è vero. Ma sì, non hai visto? È il Duomo di Milano ha dato fuoco. Sai che c'è? Sai che gli islamici hanno sostituito la Madonnina col simbolo del califfo? Lo sai che Mauro. C'è? Sono stati i comunisti. Sai che c'è? Imbarazzante sei, coglione. Bene, grandissimo coglione. Ascolta Giuseppe, devo dire che non è male. Ascolta Giuseppe, sai che c'è? Giuseppe. Ma sai che al posto del Duomo di Milano hanno costruito la grande moschea all'Aqsa? Mettigli un cazzo di gomma in bocca. Ma sai cos'è? A torsione. Sai che hanno tolto le chiese? I comunisti? Aspetta, David, fammi parlare un attimo. È bello il cazzo. Dai, basta Mauro. Dai, dimmi. Ascolta Giuseppe, dimmi che c'è. Quella che diceva che i bagnini sono tutti stupratori. Sono stupratori. No, quello lei diceva un'altra. Lei è incazzata perché si è scopato quel bagnino lì. Tutte le sue amiche tranne lei, perché sicuramente era cessa come parente. Sai che c'è? Hai capito? Sai che l'ha messo a Milano al burca tutti quanti? Perché probabilmente. Vabbè. Mauro, dai, ma chi? L'islamica? Ma no, di chi parli? Non ho capito. Non è uno che ha fatto. È uno che è intervenuto in quel messaggio, non una, hai capito male, è una. Ma che ne pensi, Mauro, di quella ragazza islamica di Sondrio che dice che quelle che si scoprono sono tutte. Beh, sai che c'è? L'hanno candidata in lista, i comunisti, sai che c'è? Sai che c'è? Lo fai star dietro il giorno che la telefonata, ma già fatto girare i coglioni, quel coglione lì. Forse almeno simpatico, invece è antipatico proprio come un gatto con gli artigli attaccati ai coglioni. Vai Mauro, però non vuoi dire niente, tu sei intervenuto per il nulla, perché che cosa ma vuoi dire? Per il nulla, e non me lo fai dire! Dimmi, e non me lo fai dire, dimmi! Allora, riguardo alla carne, a chi? Io anni fa, mio padre comprò una capretta piccolina. Ah, i conigli, sì. No, capretta, era una capretta, sì. Però aveva comprato una capretta per mangiare la Pasqua. Sì. Sta capretta si è affezionata a mia madre. Sì. A mia sorella, sì. A me e a mio padre. Sì. Quando l'abbiamo fatta battere per mangiarla, sì. Sembrava il corteo funebre. Nessuno l'ha mangiata. Perché purtroppo agli animali ti attacchi effettivamente. Però sono contrario perché dalla vita la gente ha sempre mangiato carne. È una scelta personale. Vabbè, ma quindi quelli che fanno il casino con queste cose di carne per me è aria fritta, cioè è aria fritta che si mangia la carne. Vabbè, ma qualcosa di politica, di Islam, non vuoi dire nulla oggi, non vuoi dire niente, qualcosa di Islam, di politica. Parenzo che ti dà del miserabile. Ma lui è il miserabile, perché guarda che cosa ha fatto. Si è presentato la cena, ma perché è un cagasotto, è un coglione codato, un cagasotto. Meglio da fare. Vabbè, era in un altro posto, dai. Era un altro posto. Ma che passi il mio venerdì sera con Mauro D'Amato? Ma ti pare che passo il venerdì sera con un tank che Mauro D'Amato? Ma ti pare? Coniglio e coglione. Ma ti pare? Ma hai visto cosa ha fatto il Bataclan? A Bataclan? No, guarda che si dice Bataclan. Dimmi, Mauro. Cruciani. Dimmi. Hai sentito l'intervento di Berlusconi su TG24? Che ha detto? Che cosa ti ha detto? Che cosa ha detto nell'intervento suo in diretta? Cosa ha detto riguardo agli eventi del 2011, 2012 e 2013? Ma no, che lei è un disco rotto, dice sempre le stesse cose, c'è stato il golpe. Ma lui dice le cose che io sapevo 4 anni fa. Ah, 4 anni fa, esatto. Sì, io le sapevo nel gennaio 2010. Oh, mamma mia, ragazzi, clamoroso il cibo. E perché lo sapete? Io non mi informavo certamente in Italia, mi informavo in Svizzera. In Svizzera, sì. Eh sì. E che dicevano in Svizzera? Che dicevano in Svizzera? Perché in Svizzera non c'è la censura come qua in Italia. E che dicevano in Svizzera, scusa? Quello che voi sapete dopo 4 anni. Cioè? Che cosa? Che c'è allora, stato il golpe? Come, ascolta, come ti spieghi che io a gennaio 2010 un pensionato che lavorava all'UBS di Zurigo mi viene a dire che i conti correnti italiani c'era De Benedetti, Mattigaglia, Colavino, Demolo, Agnelli, e quando c'è stata la lista con Falciani quei nomi lì non sono usciti. Ma che strana coincidenza! Vabbè, ma, dai, ma adesso ma allora che vuoi dire con questo, con questa tua follia, allora, con questa tua cosa? Ci sono due pesi e due misure. Ci sono due pesi. Vabbè, ma quello, d'accordo, quello in generale si può dire. E allora? Come allora? Ma ti sembra normale? Ma come? Vabbè, io voglio dire una cosa, caro, tu che cosa cazzo fai dalla mattina alla sera? Non fai una mazza? Qual è il tuo lavoro, la tua occupazione? Qual è? Il mio lavoro? Il mio lavoro è organizzare delle gangbang. Vabbè, ma questo non è un lavoro, scusami. Mauro, ma tu non fai niente dalla mattina alla sera, lui, sai, lui. Sai, non so come cavolo dire. Insomma, io di solito quando è il periodo giusto chiamo i miei clienti e mi offro come lavoratore autonomo, come ho sempre fatto. Vabbè, però insomma, purtroppo la crisi che ha creato quell'idiota di coglione di merda di Monti mi ha impedito da 4 anni di fare il mio lavoro. Io prendevo 200 euro al giorno. Sì, vabbè, sturare i cessi, la colpa è di Monti. Che puoi fare sturare i gabinetti, dai. Cos'è Cruciani? Ha detto Parenzo. Cos'è Cadet? Ha detto Cruciani, vai a sturare i gabinetti, che è l'unico lavoro nobile che sai fare, guarda. Cos'è Cadet? Ma lo sai in USA cos'è successo? Negli Stati Uniti, in California, San Bernardo, no, guarda che San Bernardino. No. Ma lo sai che l'ha detto l'FBI? Ma sai l'FBI da chi è comandata? Dagli ebrei e dai comunisti l'FBI. Lo sai o no? Ma lo sai cosa vuol dire la sigla FBI? Sai cosa vuol dire la sigla FBI? Ma perché lo devo sentire? Io quando parlo, voglio parlare con te, Giuseppe. Sei felice o no, Giuseppe, che vuole parlare con te? Sì, dici, devo essere preoccupato. No, dell'autorevolezza, dici no, ti sei felice o no? Dici che ascolta, vuole parlare con te. Intanto, ascolta. Non abbiamo fatto la foto, primo. E questo ma è molto grave. No, l'abbiamo fatta la foto. Pure la foto. No, io e te no. Mamma mia, no, io e te no, vabbè, la faremo, non c'è problema. C'è un limite anche al disgusto di Cruciani. Poi, c'è un limite a tutto. Non mi ha lasciato un numero, non posso lasciare il numero. Ti credo. Che manco gli lasciava il numero. Dice, se vuoi te lo do io, guarda il numero di. No. Prenditi il numero di Mauro da Mantova. Uno che esce il venerdì sera perché non ha un cazzo da fare con Mauro da Mantova è un malato di mente. Cioè tu, Cruciani. E quindi me. Ma che potresti uscire con tutte queste donne, queste amichette, queste robe, i trans, quello che vuoi. E invece passi il venerdì con un signore. Sai cosa c'è? Sai cosa vuol dire CIA? FBI? Sai che gli ebrei hanno buttato giù le torri gemelle? Ma lo sai cosa vuol dire? Non offendere gli antichi. La parola. La parola. Se vieni qua a Mantova quando faremo la sfida. Chiudi il coglione in gabbia. Allora, quando verrai a Manzo la cena, mi ha invitato a casa sua. Il numero di Cruciani, io te lo do io. Metti in gabbia il coglione. Vai a casa. Che dopo lo depositiamo. Lo depositiamo alla Casa del Sole, che è una casa per disabili mentali 100%. Vabbè, ma adesso perché devi offendere pure i disabili? Noi abbiamo già tanti problemi. Adesso pure con i disabili, no? Dai, su. No, ma vabbè, Mauro, ma hai scocciato? Stasera ma non avevi. È disabile. No, non offendere in questo modo. Ciao, Mauro. Ciao. Ma io non voglio parlare con te, coglione. Non voglio parlare con te, coglione. Voglio parlare con Cruciani, ok? La Zanzara. Quando la chiudi questa trasmissione? Allora, mai mettere l'anima in pace, però non si può sentire più, dai, se può essere. Mamma mia. Cruciani, da quando l'hai detto non riesco a smettere di pensare a te che senza carta igienica ti alzi dal water e perdi pezzi di merda per terra. Che schifo. Oh vabbè, c'ho la zanzara su WhatsApp. Mo sarà combattutissimo ai semafori. Se guardammi le surche nelle altre macchine, o registra i messaggi per voi. Vedremo. Ciao stronzi. Allora ragazzi, andiamo a... Sai che ascoltando questi messaggi mi ponevo poi la domanda: ma i nostri ascoltatori sono gli stessi che leggono l'IMES ad esempio? Ma no, ma meno male ragazzi, cioè, se fossero quelli saremmo già morti, amico mio, saremmo già morti. Gente viva, gente viva, viva, gente vivissima. Antonio da Milano, poi Ilaria, scusami Ilaria, un attimo che c'era prima Antonio. Antonio, vai. Ah, Ilaria è chi, d'amico? Allora. Ma perché Ilaria d'amico? Che c'entra Ilaria d'amico? Sai, dai, che non conduce più adesso su Skype? È incinta, Skype. Certo, sta perché per partorire. È Ilaria d'amico in linea? Ma non è Ilaria d'amico, dai, un'altra, Ilaria credo. Di Milano. Antonio, non Milano. Ancora, non sono Ilaria d'amico. No, lui non è sicuramente Ilaria d'amico. No, non sono, no. Comunque, devo dire la verità, che l'imitazione di Mauro da Mantova è eccezionale. Com'è che fa? Scusa, Parezzo, com'è che fa? Non lo so, che non si può fare al volo così. Com'è che fa Mauro da Mantova? Com'è che pronto? Fa? Pronto! Cruciani! E quel gatto della te... Ma lo sai cos'è che le Torri Gemelle quando sono cadute? Lo sai? Dentro chi c'era dentro le Torri Gemelle? C'era solo... Sai, c'era gli aerei a guidare le Torri Gemelle? Sai chi c'era? I rabbini, che hanno fatto cadere le torri. Lo sai o no? Allora l'hanno detto lì in Svizzera quando sono andati benedetti. Antonio, dimmi. Troppo così fa. Dimmi, Antonio, forte. Dimmi. Fa così o no? Sì, sì, uguale, uguale. Cazzo, no, però non fare la cosa, non fare, sembra che fai la Marchi. Perché po'. È una crasi, sì, infatti. Sì, effettivamente è di quelle zone poi. È uguale, anche la mentalità è vagamente la stessa, forse è vagamente meglio la signora Marchi da un certo punto di vista, perché almeno lavorava, cioè lavorava per la truffa. Vabbè, questo ovviamente pure lavorava, dai, su. No, questo poverino no. Dai, ma non fare così, questo, dai. Questo è miserabile. Antonio, no, dai. Ma infatti fa anche tristezza per quello. Dai, Antonio, dimmi. Parenzo, guarda, il fatto di allora, che Auremma non è Candido Cannavò. Questo è poco ma sicuro, che c'entra, guarda. Questo? Io non capisco questa difesa di Auriemma. Io non capisco proprio. L'arroganza, ma quale arroganza? L'arroganza ebrea proprio che ha. Ma che arroganza scemo ebrea proprio di Antonio. Ma questo è proprio, questo è lo scemo delle 20 e 17. Ma che cazzo c'entra adesso che Mentana è ebreo? Ma col con quello ma che ha detto. Ma questo è proprio quello scemo. Che ha detto là. Dai, Antonio su. Da Milano veramente è candidato a essere lo scemo di oggi, delle 20 e 17. L'arroganza ebrea di Mentana, ma si può essere più stupidi veramente? Fallo rispondere, però. Ma non c'è da rispondere, c'è da dire che è stupido. No, c'è poverino da rispondere. Le persone vanno fatte parlare sempre. Ma dai. No, ma se uno è un malato di mente, non è che dici scusa. Perché quindi... dici è ebreo arrogante? Spiegami che c'entra l'ebraismo. Cosa di... fai spiegare? Appunto, ma che c'entra Pulcinella? Ma, allora ma è una battuta per dire che, se, che era un clown in quel contesto, non che è un attore clown, comico. Coglione, poesia, che è una maschera teatrale. Stupido, stupido, stupido. Stai male. Guarda coglione, che stai male. Mia, guarda che stai male. Padovano, tu hai due problemi. Padovano, guarda che stai male. Guarda coglione, che guarda che ti trovano cadavere in casa se reagisci così. Ma stai male, fidati. Mandatigli subito una ma Lorenzina, chiamala la Lorenzina, bisogna mandargli un'ambulanza. Devi leccare la scrivania sua. Fai un respiro. Sei un coglione. Fai un respiro, Antonio da Milano, stai male. Ma tu respiro sudando di male, vecchio mio, attento. Ma ti viene un colpo, vecchio mio, non voglio uccidere. Guarda che veramente questa trasmissione uccide. Stai attento, ma rimettiti no, il catetere, vecchio mio. Fermo un attimo, Antonio, non ho capito perché hai avuto questo sfogo violentissimo. Sta spiego. Male. È un razzista. Tu Cruciani, tu sei. Ma sei chi ragazzo, questo è pazzo. Tu le cose, tu sei più un amico, scendi e dici guarda Antonio. Tu io fossi te, però Cruciani, mi preoccuperei di questi che ti danno spunto. Non mi preoccupo di nulla, non mi preoccupo perché di niente. Antonio da Milano è una persona ragazzo, da curare. Faccia quello. Cioè, Parenzo è proprio il paraculo col ma è da curare lei, sei, perché è pazzo curi, tecnicamente. Pazzo curi, patentato, curi, riconosciuto da tutte le istituzioni. Culo, ma dove stai? Da tutte le istituzioni. Ma chi lecca il culo? Scusa, ma chi lecca il culo, Antonio? A tutta la setta, ma sono sempre stato alla secca, a Mediaset, sono stato dappertutto. A differenza tua, che sei uno che deve solo telefonare all'800-2400-2400 perché ho un cazzo da fare tutto il giorno. Ma perché denigri quelli che chiamano questo numero? Ma non quelli, no. Non quelli. Ma non ho capito. Alcuni malati di mente, tra cui il signor Antonio da Milano. Ti ha dato del malato di mente. Ti ha dato del malato di mente. Ma in una corsia d'ospedale con quattro infermieri col camice bianco, ma che lo tengano fermo, bene, lo sedano con una dose massiccia Antonio, di farmaco. Antonio, non ti sento. Ma per forza l'ha ricoverato. Non ti sento, l'hai sentito o no? L'hanno sedato, per forza non lo senti più. Ma no, sedato. Ma quando mai? È sedato ormai. Io sono puttanate, sei solo dei grano. Sei sedato ormai, sedatista. Tecnicamente sedato. Tu sei un razzista. Sei sedato. Ti rendi conto che sei un razzista? Ma tu ti rendi conto della stupidaggine che hai detto? Io non riesco neanche a discutere con uno che dice una stupidaggine. Ragazzi, c'è il traffico. Bravo, manda il traffico che è più interessante di lui. Traffico veicolare. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. A dargli una degna sepoltura al gatto, quel gatto che è in testa, che si è lontano un chilometro che è un gatto morto. Ma porca puttana, ma si è lontano un chilometro che è un gatto che non è sotto i capelli. Allora ragazzi, alle 20.30, dopo le 20.30, grande sorpresa, un ospite che non abbiamo da un po' di tempo, per tutti quelli che mi chiedono, torna a parlare di sesso, Crociani, torna a parlare di sesso, però Parenzo puoi agire anche tu in questo caso, non è proprio una roba... Posso? Cioè non è una pornostar, capito? Posso non interagire è... anch'io? Agire, interagire. Grazie. Prima però voglio tornare sulla questione dello Zoo di 105, perché due giorni fa... Ma perché? Aspetta, no, perché no, è un programma molto popolare... Due giorni fa, in apertura dello zoo, hanno detto le seguenti cose. Allora, innanzitutto Cruciani, sapete che io l'ho sempre stimato, sì, mi piace il suo programma e tutto. Beh, non esagerare, fa molto bene il suo lavoro. Scusa, dimmi da che parte devo stare. Dalla tua, ma ce l'avrai un cazzo di cervello. È un coglione. No. No, l'altro giorno ha fatto una cagata, a mio avviso, è un mio pensiero. Siccome io sono libero di dire quel cazzo che voglio nel mio programma, per me Cruciani è stato un coglione. L'altro giorno, lo ripeto, ha fatto una cagata molto grossa, sapendo tra l'altro quello che io provo per gli animali e tutta la merda che si vede su internet, su Facebook, gente che maltratta. Cioè, secondo me era proprio una roba di cattivo gusto. Bravo. Punto. A livello professionale, il suo programma a me piace, a parte quando fa gli scherzi telefonici, che non è il suo, lui fa il giornalista e dovrebbe fare il giornalista, per il resto io lo stimo e tutto, non è che io... Cioè, non capisco perché poi nasce il caso. Aspetta, perché io voglio precisare il mio punto di vista. Prima di tutto mi chiamo Paolo Nois, con la S morbida. Gli ho anche scritto un WhatsApp, così si ricorda. Nois. Okay, cosa ha detto lui, scusa? Che Marco Mazzoli e Paolo, no, non mi ricordo. Dopo 20 anni di radio, grazie Cruciani. Questa... No, veramente non mi ricordavo, non era una cosa tipo alla Fede, sai quando Fede storpia i nomi, sì, no? Sì, certo. Cioè, o altri storpia i nomi, non me lo ricordavo sul serio. Abbiamo il collegamento allora per Luigi Gersani, ma come Gersani? Sì, Romano Crodi. Crodi, diceva, ti ricordi? Sì, si ripigliava per il culo. Non era una presa per il culo, perché se devo prendere per il culo, non è che te prendo per il culo sul cognome, uno può prendere per il culo per mille cose, no? Cioè. Questi comunque credono in qualcosa, ma perché gli devi rompere i coglioni così? Perché è un provocatore, lo fa di mestiere. Noi abbiamo criticato quello, non abbiamo detto che no, mangiare con il cioè che gli animalisti sono integralisti, è vero, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, però nessuno ha il diritto di rompergli i coglioni. Ma infatti io adesso mi farò una foto come la sua, con il cazzo che me ne frega insanguinato qua sulla scrivania. Ho scritto buongiorno gran cazzo che me ne frega. Buongiorno a tutti. Vabbè, questo è lo zoo, per carità, c'è della genialità assoluta in questo programma, come ho sempre detto, ma non è questione di riappacificazione, perché tra persone, diciamo, guerra, che fanno guerra. Voglio scatenare nessuna guerra. Ma non c'è bisogno di scatenare nessuna guerra di cosa poi? Ma no, ma perché loro, mi fa ridere solamente una cosa, che ci sia il politicamente corretto, come avete sentito, no? Cioè non devi rompere i coglioni, cioè che siano loro a dire non devi rompere i coglioni agli animalisti, francamente un po' mi fa ridere, cioè è una cosa anche un po' ridicola. Perché loro sono fatti per rompere i coglioni. Cioè la loro missione istituzionale è rompere i coglioni. Ma è così, ma è giusto che sia così, assolutamente, dai. Quest'estate ha detto che ti stima tantissimo. Anche lui. Anch'io. Però era un ubriaco e sbavava, non lo so. Ma scusa, ma quando tu litighi con un tuo amico, con tuo fratello, lo mandi a fanculo, gli dai del coglione, lo insulti per un motivo preciso. Ah, no, però vi devo dire una cosa, che mi sono arrivate. Anche lì è pieno di intellettuali. No, sì, ma chi te ne frega intellettuale? Ma chi se ne frega degli intellettuali? Dai, il problema non è quello. Intellettuale, una cosa funziona o non funziona, ha un pubblico o non ha un pubblico. Quella trasmissione ha un pubblico. Per punto e basta. Cioè, a me non me ne frega niente intellettuale. Poi può non piacere, può piacere. Stavo scherzando. No, ma il punto fondamentale è un altro, cioè un altro. Che cos'è? Grilla, molto grillina quella trasmissione, molto grillina, molto grillina. Delle inflessioni dei questi qui, capito quando parlo? Ma certo. No, però scusami, chiamiamo un attimo il dentista, ma amico mio siriano, poi... Abdallah Gabakenji, però è da ieri che... Ma no, ma non è giusto, diamo un attimo di contenuto. Abdallah Gabakenji, dentista siriano, ottima persona, di Milano, la moglie col velo, due figli. Dai. Il punto non è la stima che c'è da parte mia, ovviamente, è che molte persone mi hanno mandato dei messaggi in questi giorni, non sai quanti, raccontandomi le cose peggiori sullo zoo, sui personaggi, su questo, manda in onda questo, quello è uno stronzo. Amici miei, cioè, se io voglio fare una guerra, se me la voglio prendere con qualcuno, me la prendo, non faccio le cose a cazzo di cane, le faccio perché sono convinto di farle. C'è stare i cani. Sì, è vero. Se voglio dire una cosa contro Mazzoli, che è solamente perché lui dice quelle cose, non perché voi mi mandate i messaggi contro di lui o mi mandate i messaggi contro lo zoo. Cioè, se devo dire una cosa che ho detto, la dico, punto e basta. Cioè, non c'è bisogno che mi stimolate a fare la guerra, cosa che non farò. Vabbè, dai ragazzi, Maurizio Milano, vai veloci. Maurizio. Sì, pronto, ciao. Dimmi. Allora, ascolta, volevo portarti un'esperienza mia legata al lavoro. Io faccio l'informatore farmaceutico. E una delle ultime tendenze che si sta diffondendo è quella che i vegani, i vegetariani non vogliono l'antibiotico perché l'antibiotico uccide i batteri. Mm. Cioè? Siamo la follia. Cioè, non ho capito, spiegami sta cosa. Praticamente quando vanno dal pediatra, che il pediatra o il medico di base prescrive un antibiotico perché hanno bisogno di uccidere una forma virale, loro non lo vogliono, non vogliono l'antibiotico perché l'antibiotico è un prodotto che uccide questi batteri. Lo so, che devi fare? Qui siamo alla follia, perché considerando il resto del mondo, la gente che muore ancora per delle stupidate, qua noi abbiamo gente di questo livello. Ci vorrebbe, come diceva mio nonno, un po' di carestia. Con un po' di carestia questa gente tornerebbe a mangiare la carne. Si mette a posto tutto. Con la povertà si mette a posto. Quando mancano le cose si mette a posto tutto. Infatti io sostengo una cosa, che il veganesimo, che io rispetto, perché ognuno può fare quello che vuole. Però le analizzo le cose, le vedo le cose. È il frutto della ricchezza. Ragazzi, vegani poveri non esistono. Cioè, un vegano povero non esiste. Ma questo non è vero. Ad entrare, quando vai in quei posti lì che dove i supermercati. Ma dai, ma io vado al supermercato sotto casa mia, non mi ricordo la catena, non voglio fare pubblicità, esatto, eccetera. Ma è come andare in gioielleria, dai, su, è uguale. Cioè, un chilo di pomodori 5 euro, una cosa del genere, dai, 6, 7 euro se non di più. Ma è così, ma costa un sacco di soldi, ma va bene. Però è roba per ricchi, diciamola la cosa, pure per benestanti, per ricchi no, per benestanti. Per benestanti sicuro. A quarto giaro, detto con tutto il magari hanno un sacco di soldi nascosti, non so dove. Nelle periferie italiane non può. Pullulano i negozi bio, i negozi vegani, amici miei. Amici miei, siamo al flop. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Non voglio scendere al suo livello, Cruciani, non voglio scendere al suo livello, se lo lasci dire. È una vergogna quello che fa lei. Ciao Cruciani, voglio solo dirti una cosa, gentilmente, ti prego, ti supplico, parliamo di figa, non me ne frega un cazzo del coniglio, ma che cazzo ce ne frega noi del coniglio, parliamo di figa, figa, figa! Cruciani. Lucia, stai a fa un casino. Un casino stai a fa. C'ha ragione David Parenzo, sembri veramente i Blues Brothers che sono inseguiti da tutti. Ma c'è, non pensa che pure un'amica mia che non sente mai la radio, ma che sarà, dice, ma hai visto su internet girava una faccia del merda, uno stronzo che praticamente ce l'ha coi conigli. Cioè dico, ma sono rimasto, si chiama Cruciani, lo conosce? C'è pure la gente che non sente la radio. Stai a fa un casino, Cruciani, salvati, pentiti, pentiti. Cruciani, Cristo santo, sono qua che sto dando latte alla mia bambina. Eccola qua. E hanno appena fatto una pubblicità dove viene detto che entro il 2050 la metà delle specie animali si estingueranno. Ma è mai possibile che sti stronzi qua ci rompano così tanti coglioni per un coniglio? Un coniglio, per carità di Dio, però questa è grossa. Vabbè, il mondo è bello perché è fatto di queste, anche di questa gente. Ciò che non capiscono i vegani è che più rompono il cazzo, più a noi ci viene voglia di mangiare la carne. È come quando uno, io sono fumatore, come quando uno ti dice, ma perché fumi, perché fumi? Ecco, più mi rompono il cazzo, più io, se non volevo fumarmi una sigaretta, mi viene voglia di fumarmela. Ecco, uguale con la carne. Più sento dei vegani e più mi mangerei dei conigli. Dei conigli, mi è venuta voglia di sentire anche il gatto adesso, da quanto mi ha rotto i coglioni questi vegani. Oh Parenzo, quanto ti piacciono questi messaggi, quanto ti piacciono questi spaccato, messaggi. Uno spaccato sociologico. Allora, si potrebbero fare delle compilation. Ripeto sempre il numero 393 71 71 701. Fra poco lancerò una cosa per cui mi metteranno in galera. Ma intanto ritorno alla Zanzara in grande stile dopo tanti mesi. Chissà perché non l'abbiamo Luca più Ricolfi. No, ma che non c'è mai stata la Zanzara, che c'è? Beh, potrebbe venire, mi piacerebbe molto che ci fosse. Ah, sì, vorresti la Zanzara, il professor Ricolfi? O Alberto Quadrio Cuzzo. Ma parlare di che? Dei 500 euro di Renzi? Alberto dei 500 euro di Renzi. Sì, che anzi, non mi è venuta un'idea adesso. Lo sai come li spenderebbero secondo me, i 500 euro i giovani? Cioè, quei 500 non sono euro vincolati, eh? Eh? Come tu ben sai, è una carta. Beh, le scappatoie si trovano sono sempre. Sono vincolati. Sì, cinema, lo so, teatro. Lo so, però secondo me una scappatoia in Italia si trova sempre. Cioè, tu sei contrario, mi pare di capire. Assolutamente contrario, sì. Ma perché anche non dimmi che sei favorevole alle mance. Famiglia, per forza. Non dimmi che sei favorevole alle mance. Io sono favorevole, però non a tutti, solo a quelli che non possono a quelli con reddito basso. Cioè, tu sei favorevole basso a dare i soldi così. Assolutamente. A dare i soldi per il cinema, per il teatro, eccetera. Dare culturali, perché se tu dai una testa di quelle, dai, con la possibilità di andare al cinema, chi magari non c'è mai stato, ma non è fai possibile, una cosa ma importante. È veramente una cosa vergognosa. Ma non si possono distribuire i soldi tipo Achille Lauro, distribuire, dai. Ma che so, ma la sembra cultura, Achille Lauro, l'accesso dai al cinema, ma al teatro, alle cinema mostre, ma a una bella mostra di Botero, di ma Dalì, bellissimo, dire, di dai, Dalì, una grande mostra di Dalì, Caravaggio, la possibilità di andare al cinema, anche a vedere Spectre, ma, anche a vedere un cinema panettone, è veramente una cosa vergognosa. Anche quello è una cosa che può contribuire anche a vedere un cinema. Secondo me i giovani li spenderebbero con Efe Ball. Ma ciao, sì, come buonasera, stai? Buonasera a tutti. Dov'è? Come stai? In questo momento ci stavo pensando, se forse lo soldi contanti qualche ragazzo sarebbe venuto a casa mia, sì. E come? Beh, a voglia, come no? Ma guarda che secondo me alla fine fotteranno questa cosa qui e spendono i soldi e spenderanno i soldi con la signora Efe Ball. Invece di andare buonasera a tutti. Ciao, come stai, cara Efe? Come bene, stai? Benissimo, e voi state bene? Bene, tra un cliente e l'altro, ti abbiamo beccato come al solito, naturalmente. No, tra un cliente e l'altro. No, questa settimana lavoro di meno, devo dire la verità. Come mai? Che succede? Un po' di crisi? Ci starà il ponte, poi il 15 dobbiamo pagare ancora IMU, tutta questa cosa qua. Ma perché tu poi paghi anche l'IMU adesso? No, i clienti. No, scusa, facciamo i una cosa. Pagano, sì. Scusa, facciamo aspetta, una cosa, anziché parlare come al solito di sesso. No, ma non parliamo di sesso, facciamo mai con una cosa diversa. No, non parleremo di sesso, parleremo di Scala adesso. Parliamo di Erdogan con la signora Efe Ball. No, questo è interessante. Allora, è una bellissima domanda, visto che io sono musulmana e sono nata anche in Turchia. quindi è una domanda che mi riguarda. Scusa, tu sei musulmano? Sei musulmana? Beh, si capisce anche nudo che è musulmano, evidente da tutto. No, ma dai, non mi dire che sei non puoi essere musulmana, sì. Dai, non è possibile. Scusami, chi rinasce automaticamente in Turchia da un padre, da una madre musulmana diventa un... Ma non potrò, ho capito, tu se veramente sei musulmana. Io non so, ovviamente non sono praticante. Beh, ovviamente. No, quello mi pare non abbastanza chiaro. Non ho niente contro a nessuna religione, comunque detto questo... Cioè, tu Erdogan, preghi? Tu preghi o no? No, ma restiamo su questa... No, io prego sia in turco che in italiano. No, ma preghi, la preghiera è veramente una cosa molto semplice. Io ringrazio il cielo per ciò che mi ha dato. Vabbè, quello tutti potremmo farlo. Vivo in un modo molto sereno e più di questo non mi interessa. Ma cioè non dici Allahu Akbar, Allahu Akbar, per esempio, piuttosto c'è il crocifisso. No, però aspetta, stai calma, devi parlare sempre piano, devi parlare, devi non devi, non ci dobbiamo accavallare. Però Efe, la domanda è molto semplice, questa. Tu dici Allahu Akbar, lo dici o no? Dirà quel che deve dire, ma io quando... No, non ti rivolgi verso la Mecca, non ti inginocchi a una certa ora del giorno. No, assolutamente no. Allora non sei musulmana, dai, non sei musulmana. Okay, ma scusami, non tutti i musulmani pregano guardando la Mecca. E allora che musulmana sei? 4-5 volte. Ma come non tutti i cristiani vanno in chiesa a pregare ogni volta, no? Ma che ti piace il signor Maometto, per esempio? Ma scusa, il martedì. Non tutto questo. Io veramente, io penso, nel mio piccolo, c'è un Dio sopra di noi, che ci guarda, che ci controlla, che bisogna essere persone per bene, in qualche modo. Vabbè, bisogna veramente ma questo fare qua è scontato. Ho tre cani che vengono dal canile, io dormo con mia mamma che c'è 75 anni, il mio modo di pregare, il mio modo di ma come preghi tu? Ho capito, ma come preghi? Io prego sia in turco che in italiano. Vabbè, quando d'accordo, mando, ma che preghiere musulmane che fai? Quando un cliente magari qualche volta prego e dico grazie per oggi, grazie per avermi, non lo so, fammi... per avermi fatto vivere anche oggi. Questa è la grazie mia per avermi portato i clienti per farmi campare. Grazie, grazie. Allah, grazie Allah, grazie Allah. Con tutto il rispetto, io vivo veramente in un modo molto tranquilla e questo è il miglior modo a ringraziare. Cioè, il cielo. Io la musulmana. Serenità, la serenità. Scusami, la serenità. Vabbè, d'accordo, ma quello vale per tutto. Scusami un attimo, okay. Io musulmana, trans prostituta. Le tre cose non vanno bene insieme, però. Scusami se te lo dico. Lo so, in effetti non sono praticante, ma siccome sono nata in Turchia, io sono musulmana. Sono musulmana, vabbè. Senti, la notizia vera, Parenzo, lo sai qual è? Che la signora Efebal. No. La signora Efebal. Notizia. No, una notizia importante, molto importante. Fra poco ci sarà l'inaugurazione della Scala, la prima della Scala. Ha comprato un biglietto per la prima della Scala. Chi ha comprato il biglietto? Sì, per la prima volta, fila A, posto 3, 2200 posto euro. 2200 euro hai speso? Per la prima volta una transessuale, per la prima volta una prostituta. Ma chi l'ha pagato sto biglietto? Lei. Io sono andato io a Duomo, sotto dove c'è il metro, bisogna scendere giù. Sì. Lì, tra l'altro mi hanno conosciuto e sono stati gentilissimi con me. Io ho anche detto, ma ho detto, siccome quando compri il biglietto... Ma come hai tirato fuori? In contanti? Il biglietto non c'è assolutamente una garanzia, non è scritto il tuo nome e cognome, ho detto se perdo cosa succede? E loro mi hanno fatto un sorriso, hanno detto non bisogna perdere il biglietto della Scala in fila A, posto 3, tienetelo bene. Scusa, allora come l'hai pagato? Non mi pare una cosa, ho pagato 2000 euro contanti, 200 euro con la carta. 200 euro con la carta e 2000 euro contanti. Beh, d'altra parte tu i contanti li maneggi durante la giornata, come dire, no? Cioè, Non ho capito, no, ma non i contanti sempre, li maneggi. No. Beh, i clienti come ti pagano? Non è una cifra che io I clienti come ti pagano? Scusa. Pagano contanti, ma non faccio 2000 euro al giorno. No, perché però li accumuli. Se facessi 2000 euro al giorno non metterei soltanto 15 affissioni a Milano, ma metterei 100 a Milano. 100 affissioni a Milano. In ogni allora, però la notizia è questa, che per la prima volta alla Scala di Milano ci sarà una transessuale, sì, è molto importante. Un uomo vestita da donna, nonostante che sarò... Potresti essere accanto a Mattarella, No, questo non credo. Come sul no? Palco no, credo che Mattarella avrà un posto di onore, credo, su. Però sì, a 3, un po' fila A, posto 3, potrebbe è essere vicino alla Tea. Magari fianco di me ci sarà la bellissima moglie di signor Renzi. O piuttosto potrebbe essere Alfano. Che dicono assomiglia a Luxuria, dicono. Per quelle che ho detto, che comici, che mondo, ma veramente si somigliano tra l'altro. Potrebbe essere, non lo so, comunque io sono in fila A, più avanti di me non ce n'è, più avanti di me ce l'ho. Capito, Parenzo, cioè è straordinaria questa cosa. Sì, innanzitutto... però non mi pare così, forse va segnalato alla pagina culturale del Sole 24 Ore, non lo so. Ma è importante, all'amico Armando Torno. Per la prima volta. Nel momento in cui in Senato si parlano unioni civili, in un momento in cui... Sì, è una transessuale, va. Una transessuale, se ne frega, ma fa notizia solo per voi, ma è una cosa normale, una transessuale. Ma non è una cosa normale, fino adesso non è mai successo, ma fino adesso non è mai successo. Giusto sottolinearlo. Un transessuale per la prima volta alla Scala, prostituta. Ma, non gliene, ma perché gliene fregava nulla le altre? A lei interessa, c'è andata. Vabbè, ma con tutto il rispetto, bisogna anche qualche volta pensare. Ma è salta sta cosa, Lorenzo, tu adesso non vuoi scrivere dei articoli riguardo la famiglia di una ragazza o piuttosto farti una baciata e chissà che cosa. Senti, però, anche queste sono piccole notizie che fanno comunque un po' di dimmi una cosa, ma hai fatto pace con Salvini o no? Io con Salvini non ho mai litigato, come anche lui ha ammesso in una programma. Vabbè, ma hai fatto pace o no? Non ho parlato, non ho più visto. Prima o poi sicuramente sono andata. Senti, anche a Bologna, sono passata anche davanti ai ragazzi di centri sociali con affissione, tutti mi hanno avvertito, sono arrivati. Senti, però Efe, scusa, devi stare ferma un attimo. Efe, ferma un attimo. Sì. Nella Lega, sì. Tu lo sai, è pieno di gay secondo te? È pieno di gay o no? Allora sì. Pieno di gay. Io aspettami, una cosa molto importante. Quando sono stata alla manifestazione di Lega con altri a Bologna, c'era una fissione di Alleanza Nazionale con Fratelli d'Italia e sopra era scritto così: no Prodi, no Frodi, no Froci. Ora io chiedo, ho messo anche la foto sulla com'era? Mia pagina. No Prodi, no Prodi, no Frodi e no Froci. Ora io mi chiedo, eravamo tutti lì, vale, io mi sono avvicinato, ho fatto la foto dicendo io sono un frocio, però sono qui per dare una mano, per dire sono qui per Salvini. E io non nego di essere un frocio, come dall'altra parte. Chi mette senza una fissione del genere dovrebbe capire che nella moda, nel modo italiano. Allora, ragazzi, per i primi italiana ci sono tantissime froci, come possono umiliare, ma chi se ne frega? Lo so, ma vattene via dalla Lega, allora vattene via dalla Lega. Ma aspetta, ma è pieno di mi devi dare una domanda, Efe, devi stare calma. Sono le altre che fanno Salvini diventare quasi omofobo, insomma così. Ma senti, Salvini, ma come fanno, tu hai mai fatto sesso con i musulmani? Sì, vengono da te i musulmani a fare sesso? Ma figurati, è pieno di musulmani, Lorenzo, la gente. I turchi o piuttosto qualche uomo dell'Egitto così per la fiera, viceversa, figurati. Ogni giorno mi mandano messaggi uomini turchi che sono musulmani. Pieno di musulmani che vengono da te a fare sesso. Vabbè, non mi pare strano. Ma non è strano, però, come la solita contraddizione. Ma no, ma come cattolici non c'è assolutamente nessuna differenza. Uomini sono sempre uomini. Questa è una. Senti, lo sai che cosa faccio adesso, Parenzo? Efe, mi devi aiutare. Do un numero di telefono che è il nostro. La gente mi deve mandare i messaggi WhatsApp. E a quanti puoi fare lo sconto? Dici che mi accusano di sfruttamento della prostituzione. A quanti puoi fare sconto? Ti possono dare un'altra indagine. Ma cosa? Cioè, se facciamo così, i primi 5 messaggi che mi arrivano. Bisognerebbe farlo diversamente. Bisognerebbe fare così, come quella che si usa per i supermercati, no? Non diciamo quali. Una sorta di carta fidelity. Bisognerebbe fare la carta zanzara. Sì. Che viene convenzionata. La parola di chiave. Puoi fare quella parola di chiave. Che è il 50%. Sì, 50%. Con una 50%. Serie di enti. Va bene, 50%. Lo puoi fare? Vabbè, a quante persone puoi fare il 50%? Io sono 5. Stati giorni 5, dai, vabbè, per 5 persone per te lo farei anche no, ma io che c'entro, io non vengo. Sei te che hai voluto fare questa promozione, dico, per te che te sei un amico, insomma, sì, anche 10 persone puoi fare, però dovresti trovare 10 parole chiave, dovresti mandarmi via WhatsApp. Vabbè, domani la studiamo meglio. Grande sconto, grande sconto. Domani sera sono da Marco Travaglio, quindi domani è una giornata particolare. Sono al Teatro del Verme a vedere Marco Travaglio. Vai a vedere Travaglio. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo domani. Sono molto sociale ormai. Ciao Efe, grande sconto. Sconto zanzara per andare con Efe Ball. Ma che cazzo ce ne frega noi del coniglio? Parliamo di figa! Figa! Figa! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.